100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. A questo punto è chiaro che, nonostante le dichiarazioni formali, la Grecia, ebbene sì, parliamo ancora una volta di Grecia, dovrà ricevere prima del previsto l'ultimo pezzo degli aiuti già stabiliti, 7 miliardi e 200 milioni di euro che sarebbero dovuti arrivare entro fine marzo. Non stiamo parlando di una terza tranche, di un terzo blocco di aiuti ancora in discussione. La Germania è nettamente contraria e ritiene che sia prematuro parlarne. La Spagna invece ha già fatto capire che senza questo nuovo aiuto alla Grecia il paese non andrà avanti. Qui stiamo parlando banalmente, come dicevano le massaie di una volta, della necessità di arrivare a fine mese. I soldi che alla Grecia spettano, secondo gli accordi internazionali, dovranno essere anticipati, perché altrimenti Atene rischia, in vista di alcune scadenze tecniche di prestiti di metà marzo, di non avere più liquidità in cassa. Può sembrare strano che un paese come la Grecia abbia addirittura bisogno di anticipare un prestito di 2 settimane, perché altrimenti salta l'intero meccanismo e salta la liquidità di un paese. Ma questo la dice lunga sulle difficoltà economiche fortissime del paese, sull'assenza di cassa nel governo greco e anche sulla difficoltà che avrà sempre più Tsipras a conciliare questo bisogno di soldi tutti e immediati con le 6 proposte che lunedì prossimo presenterà a Bruxelles, tra cui la riforma del fisco e le misure per affrontare il cosiddetto trittico povertà, cibo, alloggio ed energia per le fasce più deboli. La partita è tutta aperta e per ora si naviga non a breve scadenza, addirittura al giorno per giorno. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il famoso quantitative easing della BCE partirà quindi il 9 marzo, come ha annunciato poche ore fa il presidente della BCE Mario Draghi. Significa quindi che da lunedì la Banca Centrale Europea metterà in campo un colossale acquisto di titoli di Stato e non solo, al ritmo di 60 miliardi al mese. Dovrà servire a trasferire questa montagna di denaro all'economia reale, auspicabilmente alle imprese e alle famiglie. È un'operazione che deve anche far ripartire un po' di inflazione e a scongiurare il rischio in cui si trova l'eurozona di deflazione, che sarebbe una iattura per il rilancio dei consumi, della domanda interna e quindi per quella via per l'intera ripartenza dell'economia del continente. L'obiettivo della BCE, come previsto dallo statuto, è arrivare a un'inflazione intorno al 2%, mentre, come si sa, anche dalle previsioni dell'Eurotower, per quest'anno l'inflazione nell'eurozona dovrebbe fermarsi a zero. La mossa di Draghi, che ha giocato con le attese dei mercati attraverso un sapiente stop and go di annunci, ha già raggiunto alcuni risultati importanti. L'euro è a 1,1 sul dollaro, ai minimi da 11 anni, un fatto che aumenta di molto la competitività delle esportazioni dell'area dell'euro e anche quindi del nostro paese. E poi è in atto un colossale spostamento di liquidità e da parte degli investitori istituzionali degli Stati Uniti, che stanno spostando quote importanti di investimento verso gli orizzonti europei. Del resto anche il famigerato spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi è sceso a 96, quindi ben sotto la soglia psicologica di quota 100, non appena Draghi ha parlato. Anche in questo caso significa un evidente ritorno di fiducia. Draghi ha detto bene, però, senza riforme strutturali serie, gli effetti benefici della politica economica rischiano di essere vanificati. Parlava soprattutto alla Grecia, ma spero abbia trovato orecchie attenti anche qui in Italia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.